È interessante questo brano di Luca al capitolo ottavo, perché si parla dei discepoli che lo seguivano, che seguivano Gesù nel suo itinerare e nel suo annunciare la buona notizia, ma si parla anche che con i dodici c'erano alcune donne che lo accompagnavano. Sono messe praticamente sullo stesso piano. E allora, siccome abbiamo sentito domenica scorsa, egli ne scelse dodici perché stessero con lui e predicassero e cacciassero i demoni, io vorrei un po' paragonare queste donne ai dodici che lo seguivano, che stavano con lui e predicavano. Per ringraziare il Signore che ancora oggi non lascia mancare alla Chiesa, assieme agli Apostoli, anche queste donne, penso soprattutto alle donne consacrate, alle suore, di cui non si parla quasi mai. Quanto sono preziose, quanto sono benedette. Parlavo con una persona che lavora in Meridione, in un ambiente anche mafioso, dove dice che le suore entrano senza problemi nelle case dei mafiosi. Sono rispettate, possono fare il loro lavoro di evangelizzazione sia verso le altre donne sia verso la famiglia. Ma poi penso a tutto il grande lavoro che fanno le suore, ma occorrerebbe una predica apposta per ringraziare Dio. E mi spiace che si preghi quando si parla che mancano missionari operai per la messa, si preghi solamente praticamente per i preti e non si preghi anche per i religiosi e non si preghi mai per le suore, per le vocazioni femminili. Oltre a questo, io voglio rendere grazie al Signore anche per le donne che nelle nostre comunità parrocchiali sono molto attive. Io metterei la loro presenza sotto il segno della generosità. Veramente vedo le donne che sono generose nel servizio delle comunità, come avviene del resto nelle nostre famiglie. Sono delle grandi lavoratrici le donne. Sono stanche anche loro, ma come sono dei motori che non si fermano mai. Poi vedo la generosità delle donne nelle nostre comunità nella preghiera. Se tu fai una preghiera, non c'è paragone tra la presenza maschile e la presenza femminile, come vediamo anche oggi noi a questa Santa Messa. E infine sono generose anche con i loro beni, lo dice già il Vangelo, che li servivano con i loro beni. Sono molto generose, più dei maschi in generale, le donne, con le loro offerte, come possono fare, ecco, a seconda delle loro disponibilità, per non parlare delle eredità. È vero che le donne sono le ultime a morire, però è anche vero che se la Chiesa qualche volta gode di qualche eredità è lasciata dalle donne. Quindi la generosità è la loro caratteristica. Ma seconda cosa, io credo che anche al di fuori dell'ambiente parrocchiale le donne sono grandi collaboratrici del Regno di Dio nella educazione alla fede, nelle famiglie. Sono le donne, sono le nonne, le mamme che educano, che insegnano le preghiere. Quante sante hanno avuto delle mamme sante che le hanno tirate su. Per questo io credo che tutti noi dovremmo occuparci, se riusciamo, sia con la preghiera, sia interessandoci di educare bene le ragazze. C'è un proverbio molto bello, forse me l'avete già sentito dire, ma mi piace molto, un proverbio africano che dice: se tu cresci un bambino, tu educhi un uomo. Se tu cresci una bambina, tu educhi un popolo. È bello, eh? Ed è vero soprattutto. Anche se in questi giorni io ho avuto un po' di tristezza confessando alcuni bambini che si preparano ai sacramenti, ho notato quanto poco conoscano le preghiere. E quando chiedevo: ma non te le ha insegnate la tua mamma? No, me le ha insegnate la nonna. E fuori chiesa ho incontrato in bicicletta una mamma, dico: ciao mamma, tuo bambino è un po' scarsino di preghiere, eh? Mi ha detto che conosce solo l'Ave Maria e il Padre Nostro. Ma dovete insegnargliele voi a catechismo. Pam pam, mi ha risposto così, no? Come se la buona educazione di un bambino gliela devono insegnare le maestre e non i genitori e non le mamme a casa, capite? E infine c'è questo: stessero con lui, gli apostoli predicavano. Anche le donne predicano, ma non tanto andando in giro ad annunciare dai pulpiti, ma annunciano, per usare una bella espressione di Don Tonino Bello, con il grembiule.